sta sullo scala comunque. Secondo me non c'è nulla con saggetta, ma comunque sia. Ci sono quelli che non lo sanno, lo usano come telefono per parlare. Ai, ai, duro, duro. Ai, sì, tutte buone sono, sai, quelle ragazze che sono di là, che lavorano lì a saggetta. E anche a cosa? A circolo che sono di fronte a casa. Tutto farito, piccata. Io mi sono goduto bene, sono ben stanco. Non ho riposato, dopo pranzo, ho fatto mille cose, andato in farmacia, questo per l'altro. Adesso riuscite a riposare un attimo. Ho già un'informazione, quando è che viene, perché ha problemi di diabete, quando è che viene quel lieve tremore alle mani? Quando ti tremi c'è la glicemia bassa. Bassa, no, certe volte c'ho una sensazione come di, ma non so se sia l'ansia, quello che è, di tremore alle mani, no? E mi sentivo un po' poco, non invece che devo tenermi d'occhio la glicemia ormai, passate 50, boh, io non, d'altronde non ho idea. E c'è da un po' che non faccio esami del sangue, che non faccio nulla in realtà. Ehi, io non ti auguro di avere diabete, ma bisogna controllarla. Io quando l'ho scoperto ce l'avevo a 380, qualcosa del genere. Quello ce l'ho anch'io, il tremore delle mani, a volte, ma dipende da quale giorno, se vado a prendermi un cosa, come posso dire, un... come si chiama? Una buona colazione, sparisce in tempo di 2 minuti. Quando ti succede, Marco, a stomaco pieno o a stomaco vuoto? Sì, già, non me lo ricordo. Come non sarà Parkinson? Lo sai che anche in questo periodo, dopo questi vaccini maledetti, dice che non hanno mai registrato così tanti casi di Parkinson come in questo periodo. Cioè, il vaccino ha fatto un bel di danni, in un modo o nell'altro ha danneggiato un po' tutti. No, ma è stato un caso isolato già, però l'ho notato, ho detto, come mai c'ho la mano un po'... Dove si è misurato la glicemia quando c'è questo problema qua, per vedere se ce l'hai in bassa o alta? Qua fa l'ultimo dito prima del pollice, si è cominciato a fare male, giusto? Ripeti, Antone. Qua fa l'ultimo dito prima del pollice, che comincia a fare male appena appena. No, era uniforme, era un po' tutta la mano, ma appena appena si notava, però ho detto, ma cos'è, inizio di Parkinson questo, andiamo bene, ci hanno rovinato tutti già, te lo dico io, già lo sai, no, le magagne verranno scoperte negli anni a venire, nei decenni a venire. Ma potrebbe essere anche debolezza, Marco, non è detto che sia per forza qualcosa di grave, magari un po' di debolezza, ti senti stanco e ti porta a tremore. Io molte volte quando faccio la pulizia a casa voglio fare, non do mai uno stop alle cose e mi è venuto l'altra volta questo tremolio, mi sono dovuto mettere nel divano con il cazzo perché mi stavo sentendo male. Purtroppo magari dopo, sì, non bisogna spingere troppo sull'acceleratore, se sai che il limite tuo è quello, bisogna fare le cose piano e distanziate un po' nel tempo, da non tutto assieme, ecco. Infatti io prima facevo tutte le came in una mattina, adesso faccio il bagno, la cucina, la sala e poi la sera le altre 2 camere, così almeno mi riposo un po' in quel mentre lì. Eia, Luca, riprendi. Luca, da la benedizione poi se ne va. Come faccio io, ogni tanto entro sul canale, poche volte che sento qualcuno, saluto e poi vado via. Io, canta gara che viene. Io vabbè, io sono stanco, però io anche ieri ho modulato, e tanta gente anche, vabbè, siamo stati tranquilli, dai. Sai cos'è? Col 3009 cioè è un po' una rogna stare a girare i canali spesso, cioè o stai qui e carrelli, invece con quegli apparecchi là digitali metti la scansione, metti lo squelce giusto, la scansione gira sempre, e quando trovo un canale occupato si ferma per un attimo, no? Per far sentire la comunicazione, però con questo no, qua devi andare con la rotella, con i canali. Sai chi è entrato ieri? Chi è entrato? Ieri sera chi è entrato, lo sai. Antonello Di Rossi. Ah sì, Antonello Di Rossi, caspita, sono quanti anni è che non lo sento? Anni e anni, anche infatti con Antonello dicevamo, ma sai niente di Antonello Di Rossi, è più entrato, c'ha la stazione ancora, e quindi è buono, ancora ce l'ha, dai. 5 anni è che non entrava, me l'ha detto lui. Era 5 anni che non entrava, ma stava facendo un corso per OS e adesso sta lavorando come OS, quindi ha cambiato mestiere, capito? Non è più mobiliere. Ah, buono dai, buono. Come arrivava a Sassari? Più o meno? Sentono che una radio era bassa, una radio la sentivo bassa, era in mezzo al QRM. Quando c'era il QRM non sentivo cosa diceva. Però ha detto che si deve attrezzare l'antenna, che c'è un'antenna di polo pur rovesciata. Sì, sì, mi ricordo che l'ultima volta che l'avevo sentito aveva quell'antenna V, di una marca, non me la ricordo mai quella marca, porca miseria, non mi ricordavo se era V normale o V rovesciata. Praticamente un dipolo è un po' direttivo, ecco, c'è una certa, no, una certa, è direttivo, quindi sarebbe meglio magari la puntata verso Sassari, probabile, nord, quello che è. Rovesciato è comunque. E ma già rientrerà, perché poi l'hanno telefonato mentre stava modulando e non è più rientrato, ma penso che rientri perché ha detto che si metteva a posto un po' le cose, ma ha detto davanti a tanti giri che c'è da fare, cosa, saranno nelle case a fare il suo lavoro, capito? Logico, se va con gli anziani, logico, a un certo punto, 2 minuti rientro subito io. Marco, tu perché non fai il corso di OS? Ah, io sto facendo già l'OS in casa, però lo sto facendo. E anche Antonello era di Usci, quindi... Prego, alle 10. Avanti. Buonasera a tutti, ciao Gianni. Ciao, con chi ho l'onore di parlare? Non lo sai, non lo conosci più chi sono, no? La voce non mi è nuova, ma non mi ricordo, troppo tempo che non è modulato, deve essere. Cristian. Ciao Cristian, ben sentito, dai. Buonasera. Avanti, Marco. Cappa, ciao Cristian, mi pare ti avevo già sentito, però non ricordo la zona. Marco da Sassari, avanti. Ciao Marco, no, io sto venendo dalla barra mobile oggi, che sto lavorando. Cristian, dove lavoravi tu al ferrovecchio? Sì, ma l'ho dismesso, dai. L'hai dismesso il lavoro? Sì, l'ho dismesso, perché ho dovuto fare l'OS pure io, per un periodo. Capito. Va bene, c'è anche Antonello Pomponio, si è sentato un attimo, stava venendo. E la Brittella c'era? Qui. E dov'è la Brittella che non l'ho più sentito? E chi è Lucchetto? No, Luca Manicomio. Ah, ciao Luca Manicomio. E chi è? Cristian. E beh, Cristian. L'ho portato, ce ne fanno anche io sulla 27. Ragazzi, se sei sparito, cosa? Dove sei a casa, Cristian? Sono una barra mobile, in giro. Ah, bene mi senti, sì. Sì, sto lavorando, copiando pizza, mentre mi metto a fare la baracchina. Però ti becchi, non mi parlo da baracchino, e se no sono molto allucinante. Metti il microfono sopra la gamba, di modo che non ti vedo. E quello è poco ma sicuro, va tranquillo. Non peggio col telefono già. Alla fine con il baracchino stai parlando solo la bocca, non c'è l'orecchio occupato, ecco. Quello è peggio. Aspetta, è Cristian, il fratello di cosa? Di Antonio Riserva. E io. Certo. Io ho detto per un picchio, mi ricordo, era Daniele, un Davide, un maschio, mi ricordo quello che fu un picchio, cosa mi entrava. No, non è cattivo, non lo sento già da un bel pezzo. Cosa? Sarà morto minimo. Non l'hai più visto? Perché l'ha più visto? Certo. È secca, uno, se non vuoi vedere è secca. Guarda, ti spiegherò di verticale, dai, la verticale mo ti vediamo, dai. Ho già capito, dai. Andate, cercate di andare d'accordo che siete fratelli. Ma purtroppo non è così come dici, cosa? È successo un casino. E ti ritoccherò. Ho detto, non è così come dici. Purtroppo non è così. È facile dirlo, ma bisogna vedere poi i fatti. Quando sei fratelli, mi avete ci vuole una pietra sopra. E cercare di andare d'accordo. Io so per la pace, non puoi. Ognuno lo fa ciò che vuole, però io la penso così. La vita è una. Ok, ma sono d'accordo con te, ma se non è merda, è merda. Se non lascia merda un po' muore di cioccolato. Quello è vero, io vuole fare pace, e lui se lo vuole fare pace, purtroppo è la mia. Cosa posso fare? Lo costringo? No? Sì, vabbè. Già troverete un punto di incontro prima o poi, dai. Avanti. Oh. Marco. Ehi, un attimo, Bianco, per me, sto leggendo una cosa già, vai Luca. Non c'è con le donne. Non ma niente. Luca, sempre cantando stai. Sì, tanto, dai. La prossima settimana. Cazzo, si sente la voce di donna ogni volta che parli. Chi è la tua ragazza? Una giubizzina. No, ti sto. Sono in live loro, io no, sono giù, sotto, nel rullo. Sono quelli di Cagliari. No, no, sti di Sassari, vabbè c'è una di Mosa, una di vicino a Olbia, adesso sono vicini qua di Sassari. Tutta roba sarda. Ahia. No, non mi racconto che era così tardi, io saluto tutti cordialmente, dai. Grazie per il QSO, devo chiudere che devo portare giù il cane, dai. Non mi racconto che era così tardi. Ciao, buona serata e buona continuazione. Fatemi sentire. Ciao già, ciao a tutti, anche io devo cenare. Alla prossima. Cacchio, le 8:05, non me ne ero accorto nemmeno io già. Non mi ero reso conto dell'ora, adesso vado a cucinare qualcosa per stanotte. Oi, ciao Cristian, ciao Luca, ciao Gianni, ciao Antonio Pomponio che ovviamente non è rientrato, ciao a tutti all'ascoltoni, ci sentiamo. Yeah, ciao Marco, ciao a tutti. Esatto che era il fratello di Antonio Riserva, mi ero confuso con un altro. Ci sono fuochi di Cristian, circolazione a baracchino. C'era Cristian e fratello di Franco, che c'era? Di Franco del Capo. Ciucucciu. Oh, è Antonello. Antonio, stiamo chiudendo tutti, io vado ai fornelli, con la cucina a inventarmi qualcosa. Uova e piselli volevo fare. Che buono, la verità. Uova e piselli, oppure tonno, quello che è. Ma che va bene, no? Avete parlato in due, chi era l'altro? Io ho detto che uova con le cipolle sono buone. Ah, io ce lo metto un po' di cipolle, quando faccio uova e piselli un po' di cipolla ci deve essere, quello è sacro, io adoro la cipolla. Invece magari qualche fiaghino dici, la cipolla che schifo, l'alito, l'aria, che fa aria, no? Che fa. Anche la pizza attorno ai cipolle. Buona. La nostra. Tonio, al giorno Tonio, il medico di tonno. E c'hai ragione, chiaro. Eh sì, Cristian, è vicino a casa. Zona Madonnina. In che pizzeria sta lavorando? Rubino in via Sanzio. Ah, via Refero Sanzio. Ah, capito, va bene, buon lavoro, che dai, io sto a portarci giù il cane. Ciao. Ciao, chiaro, buona passeggiata. Grazie, ciao a tutti. Ciao Gianni, ciao a tutti, dai. Ciao Gianni, ci sentiamo. Ciao Marco, alle prossime. Ciao Marco, ciao Luca, ciao tutti quanti, dai, io chiudo battenti, che devo guidare, che ho un po' di compagnia bella in giro, dai. Ciao Gaba, non c'è problema.